Voci di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti allo speciale viaggio tra le piccole e medie imprese in Italia. Un viaggio nelle macrozone ad alta densità di produzione nel nostro paese, tra i 147 distretti italiani che valgono l'80% del tessuto produttivo nazionale. Nord, sud, ovest, est sono i punti cardinali delle storie e delle testimonianze degli imprenditori che quest'estate ci raccontano il loro territorio e il panorama in cui le loro aziende affondano le radici. Il viaggio di oggi si sposta in Puglia, dove fioriscono nuovi e tradizionali distretti e si trovano ancora campioni dell'export. Non solo nel settore alimentare, con i piatti tipici di terra e di mare conosciuti e gustati ovunque, dalle orecchiette con la cima di rapa in poi, ma anche in settori inediti come l'eccellenza della meccatronica che affianca il distretto calzaturiero di Casarano, quello industriale di Barletta e quello del tessile del mobile imbottito, che nasce e si sviluppa tra le province di Matera in Basilicata e Bari in Puglia. Il tutto condito da iniziative sociali come il distretto produttivo Puglia Creativa, che è l'espressione delle imprese culturali e creative pugliesi. I talenti rimangono perciò sul territorio. Si tratta di un laboratorio progettuale nazionale, un punto di riferimento per le giovani imprese e start-up, professionisti che rischiano di essere esclusi dalle opportunità di sostegno, e per tutte le imprese culturali del territorio. La prima storia nasce da questo terreno ed è attiva nel settore della formazione. È un'impresa, la scuola Open Source, ma è appunto anche una scuola, un luogo dedicato all'innovazione sociale e tecnologica, dove svolgere attività didattiche, culturali e di ricerca. Un'idea imprenditoriale nata da un premio nazionale che si chiama Che Fare. E come spiega uno dei suoi fondatori, Alberto De Leo, forma talenti su misura per le imprese del territorio e non solo. La scuola Open Source è un istituto didattico e di ricerca applicata. In pratica noi siamo un Fab Lab didattico, nel senso che insegniamo tutte quelle discipline legate al mondo dell'innovazione tecnologica e sociale, perché secondo noi non c'è innovazione tecnologica se non è anche sociale. Questa idea coinvolge molti giovani ed è un'idea comunque imprenditoriale. Come avete fatto a metterla in piedi? Da dove è nata? Da quali soldi? Da quali cervelli? Grazie alla vittoria di un premio nazionale, si chiama Che Fare. Siamo stati in tre a vincere in tutta Italia e noi siamo gli unici a sud di Bologna, perché c'è stato un progetto a Milano, uno a Bologna e uno a Bari. Sono partiti da 700 progetti presentati e ne sono stati selezionati 40 che sono andati in un contest. Da questo contest ne sono usciti 10, da questi 10 ne sono stati premiati da una giuria specializzata 3. E il premio consisteva in 50.000 euro di contributo, che ci ha consentito quindi di nascere e di costituirci in una SRL e di iniziare questa avventura. Qual è il vostro modello imprenditoriale, il vostro modello di business? Perché la conoscenza e l'accessibilità esistono, siamo nel mondo dell'accesso e quindi anche della conoscenza come patrimonio comune. Come fate però a mantenere i numeri e quali sono del vostro business? Premesso che noi siamo divisi in quattro aree, in quattro ambiti, business unit, chiamiamolo come vogliamo, cioè didattica, ricerca, co-living e mentorship, nel senso che oltre ai corsi, noi poi ci rivolgiamo alle aziende che vogliono esprimere dei percorsi di innovazione di processo o di prodotto, quindi ci pagano la consulenza e la realizzazione di prototipi. Abbiamo un Fab Lab dove sostanzialmente abbiamo dei macchinari, dalle frese, tali laser, stampanti 3D, elettronica, dove tesserandosi si può accedere. E poi chi vuole invece sviluppare un'idea imprenditoriale, abbiamo un percorso di accompagnamento per lo sviluppo, diciamo, dell'idea imprenditoriale. Quindi i corsi, per esempio per la didattica, ogni volta diciamo stiamo un mini business plan per la sostenibilità economica. Esatto, mirato per ogni iniziativa. Ecco, i range, i livelli, le forchette di spesa o di costi che ci sono all'interno di un progetto vanno da A? Un corso va da 100 euro a 200-250 euro, dipende dal livello, se intermedio o avanzato. Noi di solito corsi base non ne facciamo, se non sporadici. Avete anche incontrato l'esperienza di Puglia Creativa. Come è stato questo incontro? Perché la Puglia è anche una fucina di idee in questo periodo. Esattamente così, il distretto, diciamo, a noi più vicino per la natura della scuola open source. Dopodiché, come le imprese che appartengono al distretto di Puglia Creativa, tutte le imprese che appartengono anche agli altri distretti, secondo noi, ed è questa la nostra visione, hanno l'opportunità di andare sul mercato, diciamo, potendo erogare servizi e prodotti nel minor tempo, nel minor costo, rende più competitivi. Però per questo servono delle competenze che è difficile trovare nel mercato del lavoro, perché si aggiungono a delle competenze di base. Certo. E noi questo facciamo, mettiamo insieme delle persone, quindi la conoscenza e delle competenze, per migliorare prodotti e servizi. Ecco, prodotti e servizi e persone sono elementi fondamentali di un territorio che esprime appunto la propria produttività, la propria capacità attraverso i distretti. In Puglia quali distretti ci sono nella vostra zona? In Puglia ce ne sono 18, dalla meccanica alla comunicazione, alla grafica, alla chimica, al distretto del turismo, ovviamente il distretto della Puglia Creativa, che racchiude tutte le arti creative, teatro, danza, musica, spettacolo. Che cosa c'è intorno alla vostra scuola? Noi abbiamo scelto appositamente di stare nel centro storico di Bari. Per chi non lo conosce, il centro storico di Bari che cosa offre? La cattedrale di San Sabino, la basilica di San Nicola, è un borgo da visitare in lungo e in largo, oltre poi il folklore, le signore che realizzano a mano le orecchiette ai pescatori che riparano le reti da pesca. La seconda storia è quella di Gimel, azienda pugliese che da quasi 40 anni progetta e realizza collezioni di abbigliamento e accessori per bambino con diverse griffe della moda. E proprio quest'anno cadono i 40 anni di attività e secondo Alberto D'Alena, amministratore delegato e fondatore di Gimel, è stato raggiunto un obiettivo importante per questa ricorrenza. Oggi coprono circa l'80% del fatturato grazie alle buone performance dell'area medio orientale russa, oltre a Corea, Giappone e Hong Kong. E nel frattempo formano loro stessi talenti in azienda, talenti soprattutto del territorio pugliese. 40 anni fa, per volontà di mia suocera, la signora Giannocchero Meglina, ha avuto inizio questa esperienza che poi è diventata una storia tutta italiana nel mondo dell'abbigliamento per bambini. Il settore dell'abbigliamento è importante in Puglia? Noi siamo a Putignano, a due passi dalla Valle d'Itria, a pochi chilometri da Polignano, più famosa di Putignano per un fatto turistico, e pare che questo sia un indotto ad alta vocazione. Alta vocazione di creativa e di elaborazione di prodotto. Infatti già nel 1940 esistevano sul nostro territorio delle aziende molto importanti e che al loro interno contenevano un numero di operatori altissimo all'epoca. Nella nostra qua vicina Martina Franca c'era fino a qualche tempo fa un indotto molto molto importante nell'ambito del capospalla uomo-donna, mentre il territorio di Putignano ha sempre avuto la vocazione per l'abbigliamento da bambino e gli abiti da sposa. Chi vi ha aiutato a svilupparvi come azienda, anche come rete, come logistica? 40 anni fa non c'erano tutte le professionalità che oggi sono al servizio del mondo industriale in cui operiamo. Il grosso dell'esperienza è stata maturata sul campo. Per quanto riguarda il vostro modello di business, la vostra dimensione dell'azienda, come si è evoluta e com'è adesso? Numeri, dipendenti, fatturato? Si è passato da un prodotto a marchi propri ad un prodotto lavorato in licenza, quindi con in collaborazione con le grandi maison della moda. siamo passati da numeri intorno al 2002-2003, eravamo a 3 milioni di euro di fatturato, adesso sfioriamo i 20 milioni. Sicuramente c'è una crescita anche nel numero di capi prodotti, che attualmente siamo intorno al 500.000 di capi. Capi che sono prodotti interamente in Italia. Il nostro modello di business prevede una collaborazione con addetti del settore, che sono nostri ex collaboratori interni che nel tempo sono diventati gli specialisti del pantalone piuttosto che della camicia, piuttosto che del capospalla. Adesso lavorano in proprio, sono diventati anche loro degli imprenditori. Non siete soltanto imprenditori, ma formate anche degli imprenditori, quindi fate crescere veramente da sempre il settore sul vostro territorio. Dalla Puglia creativa all'estero, voi esportate anche, avete una finestra sul mondo? Gli ultimi dati del 2016 vedono la destinazione dei nostri prodotti al 83% al di fuori dei confini nazionali. Della Puglia si ricordano anche i piatti, che sono buonissimi, e anche la capacità, l'artigianalità. I trulli, noi siamo a 10 chilometri dai trulli di Alberobello, ma in tutto il territorio della Bassa Murgia, perché Putignano insieme a Martina Franca, Cisternino, Locorotondo, Alberobello fanno parte della Bassa Murgia, godiamo di questi presidi architettonici che sicuramente segnano storicamente la capacità dell'uomo di creare originalità. Questa e altre storie in anteprima, inedite in versione long, ma anche idee e novità per l'impresa, potete trovarle sul sito di Radio 24, www.radio24.it, cliccando sulla pagina di programma Voci d'Impresa e curiosando nella sezione Extra, dove potete scriverci i vostri messaggi e le vostre storie. Voci di Piccola Impresa su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, e il blog e il download sono sempre su www.radio24.it. Un saluto da Anna Marino.